Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle. Mi ha fatto riflettere una notizia che ho letto sui giornali, che conferma anche una mia profonda convinzione riguardo ai brandelli di felicità che si può strappare nelle consuetudini metropolitane. Il grande mega ospedale milanese del Niguarda ha aperto al suo interno un centro commerciale colossale, mi sembra oltre 1000 metri quadri, con negozi, boutique, luoghi fantastici per avere un contatto contaminante, gratificante con la merce. Mi fa pensare che in uno dei più grandi luoghi dove entrano e escono degenti, parenti degenti, medici, paramedici, ospedalieri, via dicendo, ci sono flussi di 1500 persone al giorno che entrano e escono dal luogo in cui si curano le patologie, ma è anche un luogo legato comunque alla trepidazione, all'attesa, all'ansia, alla morte, alla sofferenza. È sempre un ospedale, per quanto si dica, è sempre un ospedale. Il fatto che all'interno di un ospedale una volta c'erano soltanto luoghi di conforto e di mortificazione, quindi barettini, piccole caffetterie, spaccio di panini, cappella, luogo di meditazione, luogo di preghiera, tutto legato comunque alla sopravvivenza o al brandello di speranza di sopravvivenza dopo la morte, si apra la fantastica, lussuosa e lussuriosa idea del centro commerciale, mi fa riflettere e mi dà anche un grande senso di allegria. Oggi trovo che nelle nostre banalissime giornate, quello di passeggiare con l'idea di acquistare qualcosa, anche se poi non necessariamente si torna a casa con l'oggetto acquistato, è uno dei più grandi motivi di leggerezza. Voi direte che è un condizionamento dato da una società consumistica che tende a considerarci tutti soltanto per valiamo quanto vale il nostro potere d'acquisto. Noi siamo i bersagli di una grande macchina, che è la macchina del profitto, la macchina del commercio, la macchina della vendita, la macchina della acquisizione coatta delle nostre coscienze attraverso il miraggio di una vita felice che passa attraverso le consumazioni di merce. Beh, se noi siamo questo, noi siamo felici di essere questo. Lo dico non per cinismo, non per bastianismo contrario di maniera, ma lo dico perché veramente, effettivamente, non vedo l'ora che finisca questa trasmissione, non perché non la faccia volentieri, è il momento più gratificante della mia giornata, perché oggi è una giornata di sole e mi piacerà uscire da questa radio, passare per un vicolo dove ancora c'è qualche barlume di un mercato rionale e far passare tempo nelle bancarelle degli oggetti di bricolage, perché già devo coltivare la mia vena di liminare umarelle. Poi andrò avanti, andrò a cercarmi delle scarpe, poi scenderò per Via Nazionale e vedrò tutti i negozi, mi piacerà vederli, mi piacerà contaminarli e mi dispiace non avere a portata di mano un grande centro commerciale, perché io trovo che il non tempo, l'assoluto tempo della felicità del centro commerciale oggi è una delle maniere migliori per uscire attraverso una piacevole fenditura dall'occlusivo tempo del nostro quotidiano. I centri commerciali oggi, per natura geografica, missione sociale, dimensione estetica e soprattutto struttura profonda, hanno tratti simili all'organizzazione dei campi profughi, ovviamente senza lo stesso scopo di protezione del territorio patrio. Eppure la dislocazione periferica spinge a deportare le masse di consumatori in uno spazio ipercontrollato e concentrato, dove c'è tutto quello che si cerca e anche di più, purtroppo. Perché è la merce che cerca il consumatore. Acqua minerale, alimenti e qualche detersivo. Sono venuto anche perché volevo vedere un iPod, anche l'ultimo modello di iPhone, mi hanno detto che c'è. Il centro commerciale è l'apoteosi del tempo libero incarcerato. Il tempo è libero perché si va liberamente al centro commerciale, si risparmia tempo, si dice, visto che c'è tutto, anzi, troppo. Si trova e dunque più facilmente si compra anche quello che all'inizio non serviva. È così, mi fanno una passeggiata e compro. Lui voleva comprare una cosa per la ragazza. Ci si trova a fare file e code infinite, perché ci sono orari e soprattutto giorni di punta, come il fine settimana, che un tempo si faceva nei luoghi di villeggiatura, adesso si fa nei centri commerciali. Naturalmente molti storceranno il naso, molti diranno, ma noi i nostri fine settimana li passiamo ai musei, li passiamo nelle librerie, li passiamo nelle città d'arte, li passiamo per accrescerci culturalmente. Quale messaggio dai tu, o Nicoletti, perfido profanatore delle buone coscienze degli italiani? Viene continuamente fatta questa accusa, anche ieri ho avuto messaggi terrificanti di persone che mi sbattevano virtualmente la porta in faccia perché non mi ero occupato di Guzzanti, non avevo detto la mia anche sulle liste e sui decalogi letti in televisione, non mostravo impegno civile. Beh, il mio impegno civile in questo momento in cui tutti si indignano per i mucchi di spazzatura e tutti non fanno altro che portare fuori quelle che sono le viscere, il pattume che esce dalle viscere del paese, io voglio questa mattina proclamare il piacere, la gioia, l'estrema lussuria di passeggiare per i centri commerciali. Avete notato che i centri commerciali si stanno anche adattando ai luoghi fantastici e tradizionali del nostro tempo felice? Hanno dei giardinetti, hanno delle panchine, hanno delle fontanelle, quelli più elaborati, quelli che stanno alle periferie, c'è uno bellissimo quasi fuori del raccordo anulare di Roma che addirittura si ricostruisce, lo vedo su una collina, ci passo sotto con grande desiderio, grande voglia di visitarlo, come volessi visitare le vestigia di un'antica città del passato. Vedo questi tempietti, queste colonne, queste costruzioni, queste piccole cattedrali posticce ricostruite sulla collina, e mi piace entrare nel paradiso del posticcio. Mi piace perché c'è soltanto tanto gente felice, perché il contatto con la merce rende felice, è indubbio. Vedere ed essere sommersi da questa cornucopia di oggetti, di vestiario, di accessori per la cucina, di stratificazione policroma di tutti gli oggetti del piacere. Se vado in un centro commerciale e voglio un asciugamano, non mi viene presentato un asciugamano, viene presentato un asciugamano in 100 diverse fatture, in 80 colori diversi. Mi ricorda un po' qualcosa legato ai giocattoli dell'infanzia, che noi avevamo tanti cubi oppure tanti cilindri da mettere uno sopra l'altro per fare la piramide, e ognuno era di un colore diverso, colori basilari, giallo, verde, rosso, blu, bianco, erano tutti i colori più belli, i colori che noi vedevamo plasticamente rappresentati poi nei pezzetti di pongo, e finché il pongo non diventava quella massa informe che corrisponde un pochetto a quella che è la nostra giornata quotidiana, che è un insieme, è un magma senza colore, è una massa grigiastra nel cui indifferenti ci infiliamo, senza odori, senza sapori, senza colori. Ritornare al centro commerciale significa riavere la stratificazione possibile di tutte le possibili piacevolezze sensoriali. Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido IKEA. Burni, buongiorno. Sì, vorrei ordinare la balza antipolvere di Erika Peccari. Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin yang, dovevo averlo. Il componibile personale per l'ufficio della Klipsk, la cicletta della Overtrek, il divano o mashab a strisce verdi della Strin. Perfino le lampade a filo rislampa fatte di carta non candeggiata per un ambiente rilassante. Sfogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Avevo tutto, anche i piatti di vetro con piccole bolle e imperfezioni, prova che erano stati realizzati da onesti, semplici e operosi indigeni artigiani di... Dunque. Stavo attendendo. Una volta leggevamo pornografia, ora siamo passati ad arredomania. No. Questo è il protagonista di Fight Club. Ricordate il film in cui viene ritrovata la vigoria, il cimento e la sanguinosa maniera del confronto fisico da parte di normalissimi protagonisti della vita della burocrazia metropolitana, nella sua prima fase, nella fase della perdizione amorosa per il catalogo dell'IKEA, con dei luoghi del fantastico più conosciuti, più percepibili, il luogo di grandi transumanze familiari dei fine settimana, tutti con il metro di carta in mano, con la matitina e il blocchetto degli appunti, e con la carta millimetrata, con il catalogo, a comprare cose che sembrano darci la felicità proprio per loro avere una loro esclusività. la massificazione dell'esclusività, l'oggetto con una ricercatezza nella fattura, nella costruzione e nella dinamica delle possibilità di collocarlo in casa, però uguale per tutti. Oggi si comincia a inflazionare l'icheismo. Ricordo che 10 anni fa la prima casa del Grande Fratello era arredata a Ikea. In presente tutti scoprirono la meraviglia di questi divanetti che costavano poco ma sembravano fighetti, e tutti cominciarono a comprare roba Ikea, e oggi le case trasbordano di roba Ikea, e oggi per effetto contrario troviamo delle similitudini in tutte le nostre case, appartengano al centro, alla periferia, case d'epoca, case moderne, case costruite, case in campagna, case in montagna, case ristrutturate. Ritroviamo spesso gli stessi lampadari, lo stesso divano, lo stesso cuscino, lo stesso puff. L'altra è venuta un'amica mia a casa, ho messo i piatti, naturalmente i piatti grigi, quelli ruvidi delle camere, tu questi ce lo uguali anch'io a casa. Fra un po' avremo tutti degli oggetti di consumo quotidiano che assomiglieranno, che alleggeremo tutti nello stesso sogno amniotico. 800 24 00 24, sia appunto l'IKEA, sia il centro commerciale, sia l'outlet, sia la grande città ricostruita dei piaceri dell'acquisto, qual è la vostra impressione quando attraversate questi luoghi? 800 24 00 24. Oggi vi mostreremo il primo film che non costa niente. Per realizzarlo basta una storia sconvolgente, ed è già nella mia testa. Qualche attore, è in favore a un amico, non se nega mai, è un set già pronto, con luci, divani, letti, cucine, insomma, tutto quello che ci vuole per ricreare degli interni. Come che ci vuole? E dove trovo tutto questo? All'IKEA. Lì è tutto già pronto per girare un film a scrocco. E ora siamo orgogliosi di presentarvi il cast che ha accettato di lavorare a Grani. Valerio Mastandrea, Pietro Sermonti, Jasmine Trinca. Questo è un esperimento che hanno fatto le Iene per reagire in qualche modo o porre una nuova problematica sul piatto, sui tagli appunto alla cultura. Hanno detto: giriamo un film a costi bassissimi con degli attori amici che accettano di recitare, ma in realtà il risparmio totale lo facciamo sulle location. Andiamo a girare questo film in un grande magazzino, all'IKEA, in un grande luogo di mobili. In realtà lo fanno realmente. Ma non è così peregrina poi questa cosa. In realtà i centri commerciali, soprattutto quelli dove si vende mobilio, trovo che ci sia, che siano pieni di un fascino molto particolare. Io vi confesserò uno dei miei sogni più profondi, che mi accompagna da diversi anni, sin dai tempi del grande trionfo delle case del mobile, di nonno Ugo, delle città del mobile. Nonno Ugo Rossetti, che negli anni 80 inventò l'idea della città del mobile, in cui si era proclamato sindaco con la donna più bella del mondo, che allora era Carmen Russo, mi ricordo, e tante altre fantastiche donne, aveva inventato il suo piccolo regno fittizio. Era il re travicello della città del mobile, che stava lungo la via Salaria. Era un normale grande pannone di camerette in legno pressato, di armadi incartonato, di mobili in stile pantografati di cartone pressato, però rappresentavano comunque un sogno, il fatto si potesse entrare in un immenso capannone di case arredate. E io, che ero un po' più giovane, sognavo che quanto mi sarebbe piaciuto rimanere chiuso la notte in un grande mobilificio, in un grande centro commerciale. Pensate, stare una notte qua, come stare una notte nel museo, secondo una fortunata serie di film, e si animano tutti gli oggetti del museo, i dinosauri, i soldati e via dicendo. Beh, io volevo essere solo o, diciamo, parzialmente accompagnato in un grande centro commerciale e passare, non lo so, in cenette pantagrueliche o romantiche a lume di candela, in una delle tante cucine, cambiandola di volta in volta, passare nelle camere da letto, fermarsi nei salotti, accendersi la pipa davanti ai finti caminetti con le fiamme rappresentate attraverso un lumino. Esiste il caminetto finto con il fuoco finto, anche questo visto. Beh, in questa ricostruzione fittizia non trovo rappresentazione più concreta di paradiso terrestre che quella che si può trovare in un centro commerciale. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Sta trattando un argomento che a me praticamente è sempre stato praticamente di importanza vitale, perché sono un commerciante e ho sempre fatto una valutazione non da commerciante ma da cittadino. A mio parere questa praticamente creazione virtuale della città, perché noi rivediamo praticamente piazze, vediamo delle strade, addirittura in alcuni casi gli danno dei nomi, in alcuni casi vediamo una ricostruzione di paesi con villaggi, finestre, fiori. Cioè, la cosa più fantastica sono i luoghi di ristoro all'interno dei centri commerciali. Sì. C'è la pizzeria con il muretto che ricostruisce uno scorcio, magari, non so, di vicolo napoletano. C'è la taverna messicana, c'è il castello medievale, c'è di tutto. È il paese dei balocchi, diciamo la verità. Perfetto, ma la cosa allucinante è che praticamente adesso nelle piazzette trovi le donne che allattano i bambini. Cioè sono diventati dei punti di riferimento che hanno praticamente sostituito completamente le città. Addirittura noi ci siamo resi conto che le illuminazioni, l'arredo urbano, la vivibilità, che praticamente poi è vivibilità che è stata compromessa da noi stessi con costruzioni abusive, città senza parcheggi, infissi di alluminio anodizzato in palazzi dell'epoca, cioè tutte queste cose secondo me hanno compromesso tra virgolette la beltà di fare una passeggiata lungo la città. E quindi andiamo nelle città ricostruite, le città fittizie. Perfetto, sì, le posso dare mille esempi. Noi abbiamo qui in Abruzzo dei centri commerciali che riproducono fedelmente dei villaggi. Lei entra per esempio a Città Sant'Angelo e lì praticamente c'è un villaggio tutto posticcio, sembra di essere al cinema perché chiaramente è tutto ricostruito. Ma infatti gli anziani preferiscono andare al centro commerciale che nelle strutture preposte dentro le città. Noi abbiamo fatto spesso una missione sugli Umarell, su questa figura fantastica e fantomatica di persistente anziano metropolitano. E al centro commerciale hanno le panchine, hanno i giardinetti e soprattutto hanno un clima sempre favorevole, aria condizionata d'estate, riscaldamento giusto l'inverno, quindi è l'eterna primavera nel centro commerciale. C'è proprio una metamorfosi dell'uomo, no? Io vedo per esempio il rapporto con mio figlio, io ho 48 anni e mio figlio ne ha 12. Lui quello che fa sono tutti quanti rapporti che, al contrario di me, della nostra generazione, non ha rapporto fisico con le cose. Cioè mio figlio ancora si meraviglia quando cade dalla bicicletta, per me era una condizione normale. Cioè rapporti con la terra, con le cose, il fatto di essere sporco perché comunque vivi nel giardino, vivi le dirò di più. Io ricordo in questo momento una fantastica puntata del cartone animato per adulti dei Simpson. È un momento in cui Homer Simpson, il cialtrone protagonista, la moglie Marge, trova un momento di romanticismo andandosi ad accoppiare dentro il castelletto del minigolf di una specie di centro divertimenti della città di Springfield. E siccome lo facevano da ragazzi, puntualmente, non avendo momenti di intimità, di tranquillità con i figli, la famiglia, vanno puntualmente in questo castelletto ricostruito che era il castello del minigolf, finché non li scoprono e succederà una cosa fantomatica. Però loro ritrovano degli spazi di intimità, di piacevolezza, di romanticheria, in un luogo totalmente e visibilmente fittizio. Alessandro. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Io sono una persona fondamentalmente buona, però a volte riesco anche a essere terribilmente cinico e sgradevole. Purché uno se ne accorga non fa mica male. Ma un po' di autocritica ci può anche stare. Sarebbe tanto bello poter amare tutti e essere benvoluti da tutti. No, ma non è bello per niente, sarebbe noiosissimo. Se piacciamo a tutti siamo noiosi, non esprimiamo carattere e una ben definita volontà di essere, perlomeno di emergere dalla massa. Io per natura vado controcorrente, più delle volte ho ragione, ma non perché sia autoreferenziante, mi dà ragione il fatto che io possa dire la mia e non mi metta a fare il gregge. Vabbè, adesso che abbiamo parlato di lei, parliamo del centro commerciale. Per l'amor di Dio, volevo chiusare in maniera elegante e non ci sono riuscito ovviamente. No, certo. Allora, quello che io riesco a vedere nell'ambito dei centri commerciali nei quali io vado a fare la spesa per me o per la mia famiglia è una sterminata quantità di sorci, topi che hanno una vita talmente datana, schifosa e frustrante. Ma topi nel senso di pantegane o esseri umani topiformi? Men and mice, sono uomini topiformi o perlomeno sorci umanoformi. Gente che non ha nulla da fare, nulla a cui pensare e va ad aspettare che sia qualcuno a dir loro cosa debbano fare, cosa debba loro piacere. E lei invece in che animale si identifica, visto che considera me stesso, perché io ho un grande piacere andare nei centri commerciali, quindi mi topificherò qualche volta. Ma per l'amor di Dio, mi topifico anch'io. Io sono una specie, che ne so, di medusa. Non ho la pretesa di essere né il leone, né lo sparviero, né il giaguaro, piuttosto che lo squalo della situazione. Io, se appena posso, mi faccio di latina per viaggiare ancora velocemente attraverso questi topi o questi predatori meravigliosi al vertice delle rispettive catene alimentari. per fare alla svelta cose che servono alla mia sopravvivenza. Va bene, per lei il centro commerciale è un luogo in cui va a ricaricarsi di energia e di cibo e troverà altrove nella sua medusea realtà occasioni di soddisfazione. E noi, che a volte ci piace farci spuntare i denti, allungare la coda, crescere le orecchie ed i baffi, ci piace, come topolini, girare nel nostro piccolo circo con la ruota che gira, con l'altalena e con le vetrine piene di cose luccicanti che ci fanno sognare. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800 24 00 24, stiamo parlando dell'estasi dell'ipermercato. Io forse sto calcando la mano, ho preso questa mattina una veglia nostalgica per i momenti spensierati passati negli ipermercati, però vedo c'è una profonda reazione. Mi scrive Francesco Franco facendomi delle citazioni letterarie, mi cita Zola nel ventre di Parigi, la pittura degli acquisti, tutta una letteratura del secondo Ottocento. Soprattutto dice che i centri commerciali sono gli eredi delle grandi esposizioni universali dell'Ottocento, ma quella famosissima a Parigi degli inizi del secolo. Sì, in effetti era una ricostruzione, una volta tanto, dandogli una grande enfasi e di grande accadimento, in cui veniva mostrato il più fantastico livello raggiunto dalla civilizzazione: la corrente elettrica, le macchine fantastiche, le invenzioni, le meravigliose luminare. Beh, questo oggi è alla portata di tutti, oggi è stato standardizzato e rappresentato serialmente attraverso gli ipermercati. Mi stanno anche scrivendo molti che l'ipermercato è anche un luogo di socializzazione, un luogo in cui è possibile trovare e incontrare delle aree di umanità omogenee. Ci troviamo tutti di fronte alla stessa via, la stessa piazza, l'ipermercato, dove vendono quel particolare oggetto, quel particolare genere di merce che a noi appassiona. Vuoi la tecnologia consumer, vuoi l'abbigliamento, vuoi le scarpe, vuoi gli accessori fantastici per la cucina. Beh, girare per l'ipermercato, essere presi da questa febbre, che per alcuni può essere una febbre distruttiva di ogni creatività, per l'acquisto è comunque, sia nel bene che nel male, possiamo giudicarle come vogliamo, una delle rare soddisfazioni che collettivamente possiamo, di cui collettivamente possiamo usufruire nell'era contemporanea. Raffaella, buongiorno. Buongiorno. Lei lavora in un centro commerciale? Sì, io lavoro in un centro commerciale, e che poi, seguendo da quello che ha detto lei prima, in Francia, Parigi doveva essere praticamente la reincarnazione di quello che era il mercato di una volta, l'incontro delle persone che succedeva nel mercato rionale e quello alimentare. Però io, ripeto, io lavoro in un centro commerciale, sono contentissima del rapporto che ho con la clientela, con tutto. Quello che mi dispiace... Quindi lavora di domenica lei? Lavoro anche di domenica, anche se io penso che non si dovrebbe lavorare la domenica. La domenica si dovrebbe lavorare soltanto in casi eccezionali, tipo la festa, queste cose qua, però molte domeniche le dobbiamo lasciare alla famiglia e ai figli. A me dà un sacco gusto lavorare la domenica, perché si lavora meglio, c'è meno gente in giro. Purtroppo non è così, perché la domenica è il problema che appunto volevo portare avanti io, è che vedo molte volte tanti bambini parcheggiati in un centro commerciale con le mani piene di cose che non capiscono perché ce le hanno. E io adesso stamattina, che sono a scuola da mia nipote, che ho l'incontro con i professori e con qui davanti ho migliaia di ragazzi, vedo proprio che questi ragazzi si comportano come in un centro commerciale. Prendono senza capire poi chi alla fine del carrello andrà a pagare, e molte volte i genitori questo non glielo fanno capire. Ripeto, parcheggiano i bambini in un centro commerciale come se tutto fosse a loro disposizione, senza fargli capire niente, e questo sinceramente mi rattrista. E quella è la scellerataggine dei genitori, però i bambini sono incolpevoli di questo. Ci sono dei meravigliosi luoghi di gioco con i tunnel, con le altalene, in cui i bambini sono felici. Se poi i genitori sono loro condizionati da questo contatto con la merce che non sa bene a chi appartenga, mi fa venire in mente un racconto meraviglioso meraviglioso di Calvino delle storie di Marco Valdo in città, in cui erano dei poveri disgraziati morti di fame. E vanno tutti al supermercato, Marco Valdo, la moglie, i ragazzini. Sono talmente attratti e sedotti dalla merce che si riempono tutti i carrelli. Fanno finta di andare soltanto a guardare. Poi si ritrovano tutti al centro del supermercato con i carrelli stracolmi di merce. E non sanno come fare perché non hanno una lira. E quindi alla fine non possono fare altro che uscire per una porta senza cieca di quel supermercato e rovesciare i carrelli fuori dalla finestra e rovesciare, buttare via tutta la merce, perché allora è bastato il contatto. Questo so, è un rapporto difficile, ma io adesso non volevo valutare le alternative educative che ci sono per i bambini, per noi adulti, anzi per noi quasi umarelle, devo dire che l'ipermercato è un grande luogo di incontro e di felicità. Volevo sentire Carla Tucci. Carla Tucci, buongiorno. Buongiorno. Carla Tucci è docente alla Scuola Design e Marketing Polimoda di Firenze, è autrice di un libro di cui abbiamo parlato già a Melog l'anno passato, La vendita visiva, strategie tecniche di visual merchandising, Franco Angeli Edizioni. Ecco, ci può raccontare in maniera più particolareggiata e mirata quale sia la tecnica sottile di questi mangiafuoco dei centri commerciali che ci attraggono, ci costruiscono dei paradisi così impossibili da non frequentare? Certo, l'allestimento spaziale non serve più solo a riordinare e rendere funzionale l'esposizione, ma il luogo dove avviene la transazione commerciale deve comunicare una filosofia di vita, una scelta di vita, una scelta culturale di civiltà e visione del mondo. E quindi, diciamo, questa forma di comunicazione dell'ipermercato diventa molto più pervasiva del classico negozio del centro città. Lo spazio e il tempo si dilatano e quindi non acquisti solo più merci, ma sposi una proposta culturale. E questo ha l'impressione di vivere più intensamente quel tempo. Via, esatto, a un'identificazione maggiore con quella che è la proposta. E vediamo che voi avete citato anche l'esempio dell'IKEA. Per esempio, all'IKEA, diciamo, la esposizione della merce non è la classica esposizione della vetrina in cui la merce è divisa dal pubblico attraverso un vetro. Nell'IKEA l'esposizione della merce è organizzata con un percorso obbligato e il consumatore si rapporta con la merce in modo più concreto, è come il percorso, vivendo le varie stanze, vivendo le varie proposte. Sì, come negli autogrill il percorso dei salami, che bisogna, esatto, uscirci per forza. Cioè, lo spazio è organizzato in quel modo lì, è preordinato all'allestitore, in qualche modo il lavoro dell'allestitore è quello di prevedere quello che saranno le disposizioni e gli stimoli all'acquisto del pubblico. Ma infatti io parlavo di felice contaminazione con la merce, noi siamo contaminati, esatto, anche se non acquistiamo nulla, torniamo a casa con qualcosa nel nostro DNA di quella merce. Di quella merce, ma perché abbiamo, cioè la viviamo molto di più, abbiamo la possibilità di toccarla, nell'IKEA abbiamo la possibilità di sedersi su quel divano. Non solo vedere, anche gli odori sentiamo. E questo, esatto, è un molto più forte stimolo all'acquisto. Così come nei centri commerciali in cui viviamo una città di sogno, destressiamo anche il nostro impegno all'acquisto, per cui è molto più semplice, più facile, più positivo comprare e acquistare. Quindi noi compriamo, oltre alla merce strettamente legata a un oggetto, compriamo anche il tempo felice vita che trascorriamo assieme alla merce. Esatto, il tempo e tutto quello che ci comunicano queste merci, cioè una filosofia di vita vera e propria. E qui ci si riallaccia un po' anche al discorso che facevate prima dell'omologazione. Cioè, praticamente in questi centri commerciali ci viene presentata una visione di vita in cui ci dobbiamo identificare e gregariamente ci identifichiamo. Guarda, io ho un po' l'impressione, esattamente, poi quando si compra uno di questi oggetti fantastici, si porta a casa, si spoglia di tutto il suo fascio, come quelli che comprano, non so, la bottarga in Sardegna, le friselle in Puglia, l'anduia in Calabria, poi vanno a casa, se la mangiano nella loro cucina. Non gli sembra la stessa cosa di quando se la mangiavano felici durante le vacanze. Anche il bellissimo paralume, il divanetto meraviglioso, la policroma tavoletta, quando uno la porta a casa e la confonde, la rimette nel grigiore del quotidiano, sembra assolutamente tutta un'altra cosa. Grazie Carla Tucci, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Stiamo analizzando la fantastica esperienza alla portata di tutti, quindi grande momento di intrattenimento culturale, secondo me, ma questa è una mia accezione personale, criticabilissima, del passaggio nei luoghi degli ipermercati della merce, in cui la merce è esposta, la merce ci contamina, la merce ci abbraccia, la merce modifica le nostre sinapsi semplicemente annusandola, sfiorandola, sedendosi sul divano, sulla poltrona, prendendo in mano il piatto, vedendo le fantasie dei bicchieri policromi, immaginando che attraverso cristalli colorati noi potremmo avere chissà quale fantastica esperienza di relazione clandestina o di lecita, comunque rafforzamento dei legami già esistenti. Ma questo a me poi scompare, è come quando si spegne il cerino della piccola fiammiferaia e la circonda l'abbraccio gelato che poi la strapperà anche alla sua fragile vita della città ostile, quando noi torniamo a casa anche carichi di borse di fantastiche tovagliette oppure di oggetti bellissimi comprati all'ipermercato, all'outlet e via dicendo, ci rendiamo conto che il raffronto con la realtà quotidiana non dà quella splendida cornice di eternità lussuriosa a quello che ci siamo portati a casa. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Salve, signor Nicoletti. Io intervengo in trasmissione perché volevo sottolineare un fatto, una cosa, un aspetto del centro commerciale. Il centro commerciale è una delle poche isole esenti da traffico. Uno sa già dove parcheggiare, arriva, va a spasso, non deve porsi il problema delle macchine, del vigile che ti fa la multa, cose del genere. È un momento di relax. Molte persone forse sono talmente tese che non riescono a godersi neanche quello. Io sinceramente, è uno dei pochi posti, insieme a Venezia, tanto per arrivare a un paradosso, che mi dà la possibilità tranquillamente di girare senza preoccuparmi, magari poter guardare in faccia le persone, perché poi è anche un posto sorvegliato, diciamo che comunque è un microcosmo. Certo, c'è la tranquillità, c'è addirittura il carrellone per portare la merce fino all'automobile. Sì, al di là del affittano fatto anche il portapacchi all'IKEA, se uno volesse poi caricarsela sulla macchina. Pensano a tutto. Ma lei ha citato, Maurizio, lei ha citato non a caso Venezia. Sentiamo Riccardo. Riccardo, deve raccontarci una cosa, forse a molti sarà nota, ma questa mattina ci sta bene. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, praticamente sono stato la settimana scorsa a Los Angeles e tra le varie cose che c'erano nell'hotel ci sono i vari opuscoletti per le visite guidate e altre escursioni, e vedo una cosa strana, vedo il giro a Venezia e mi sono detto un po' strano perché era tutto così perfetto, poi vedo la gondola con il gondoliere, ma troppo perfetto. In pratica hanno ricreato Venezia con tanto di canale grande, gondoliere, gondola, soltanto che questa si muove su binari immersi, cioè la gondola è motorizzata e il gondoliere fa finta di remare per non far fatica, perché lì è tutto volto alla finzione massima, però senza fare nessuna fatica. Ecco. Beh, trovo che sia fantastica questa ricostruzione fittizia delle città d'arte. Oggi le nostre città d'arte più note in realtà sono le grandi parchi per divertimenti, per processioni di giapponesi o di polacchi a seconda dei periodi dell'anno, che vengono portati senza nemmeno rendersi bene conto dove vanno attraverso percorsi obbligati, e sembra proprio che anche loro viaggino su un carrello a rotaie, perché non si esce dal percorso, ci si ferma alla pizzeria, si va nel luogo tipico, si fa la visita guidata al monumento, al luogo d'arte, tutto velocissimamente, tutto attraverso uno standard molto molto scarno di sensazioni. Trovo che sarebbe molto più divertente divertente portarli nei grandi luoghi senza tempo, senza connotazione geografica, senza nessuna discriminazione né di censo, né di età, né di capacità di acquisto, che sono i centri commerciali. Ma visto che ormai abbiamo attribuito delle facoltà, delle qualità paradisiache a questi luoghi, chi è il grande demiurgo dei centri commerciali? Chi ha inventato uno dei più frequentati luoghi del piacere estetico dell'acquisto? Ci risponde su questo Nanni Del Becchi. Nanni Del Becchi, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Ciao Nanni, siamo amici da lunga data, è un giornalista. Sì, ma lo so. Giornalista, autore del Signor Ikea, una favola democratica edito da Marsilio. Una volta ci occupavamo entrambi di televisione, quindi di spettacolo, guardavamo La Grande Ammaliatrice. Tu hai voltato un pochino il tuo sguardo e hai visto quello che ha creato il grande spettacolo dell'Ikea. Chi è questo signore? E questo signore, che ha un nome impronunciabile, è Ingvar Kamprad, è un signore che ormai ha più di 80 anni, ma non ha nessuna intenzione di mollare, tra l'altro continua a stare al timone della sua azienda. È un uomo così geniale che, pur avendo fondato tutto lui e pur volendo lasciare il suo marchio personale sull'azienda che poi è diventata appunto questo luogo magico di cui tu parlavi, ha pensato bene di trasformare il suo nome impronunciabile in un acronimo che tutti adesso pronunciano tranquillamente, ed è IKEA. In realtà l'iniziale del suo nome, del suo cognome e dei luoghi di nascita nel paesino sperduto nel sud della Svezia dove lui è nato. Ma pensa, lui ci ha contaminato anche con gli oggetti che noi compriamo, i tavolini, le sedie, hanno dei nomi svedesi impronunciabili che ormai conosciamo tutti però. E sì, straordinaria anche questa sua capacità, tra l'altro un'invenzione, quella di dare ad ogni oggetto, ad ogni mobile, ad ogni componente un nome, che poi Ilaria, Iazzone, eccetera, in maniera abbastanza trash e pop hanno imitato, no, con i loro salotti Sabrina, Umarisa, eccetera, ma il primo è stato lui, con le billi e le tante altre invenzioni legate ai vari oggetti che tu puoi comprare. Ecco, ma lui a cosa si era ispirato? Perché la realtà svedese non mi sembra poi così prolifica di sogni policromi o di luoghi di grande felicità. Io immagino, sarà che sono un po' contaminato dalla narrativa, da alcuni ricordi adolescenziali fanciulleschi, mi sembra un posto tanto triste, di gente tristissima, terra di vampiri, di suicidi. Invece ci ha dato il più grande sogno immaginifico che possiamo avere, che è quello della merce colorata. Appunto, hai due possibilità: o ti deprimi e ti ammazzi, oppure hai una reazione opposta e ti crei una sorta di paradiso che ti puoi però montare da solo. Cioè, a me viene in mente la partita a scacchi fra la morte e il crociato, capito? Pensare alla Svezia di Bergman. Non vai lontano, perché intanto lui è figlio di emigrati tedeschi ed è stato cresciuto sostanzialmente dalla nonna, perché ha avuto una madre alcolista e suicida. Quindi c'è una storia tragica dietro, come spesso capita, dietro questi uomini che si sono fatti da solo. E in effetti, se c'è uno che si è fatto da sé in vita sua, cioè proprio montandosi bulloncino per bulloncino, è stato lui. Se ti devo rispondere in sintesi estrema, io poi ci ho riflettuto, poi vabbè, il libro riprendo un'intervista che avevo fatto molti anni fa, e che è una delle rare interviste che lui ha concesso personalmente a un giornalista. Lui è stato soprattutto un genio della logistica. Lui ha avuto delle intuizioni spaventose, che adesso tornano tra l'altro nel mondo di internet dove tutto si sta smaterializzando, ma il primo è stato lui. Quindi diciamo, noi sogniamo collettivamente, affondiamo i nostri momenti di tristezza nel grande sogno della stanza dei balocchi, non ha mai avuto un signore svedese con una fanciullezza disastrata, che si è immaginato e costruito la sua città dei balocchi e l'ha messa a disposizione di tutti, adesso ha tantissimi amici. Esattamente così, quando tu prima descrivevi appunto questa terra promessa che può essere il centro commerciale, bisogna pensare che lui, appunto, a proposito di intuizioni logistiche, lui ne ha avute una dietro l'altra in tutta la sua vita, fin da quando era ragazzino e comprava i blocchi di fiammiferi perché costavano un po' meno e poi li rivendeva ai compagni di banco uno per uno. Ma lui ha inventato negli anni 50 i primi centri commerciali, dove faceva arrivare da tutta la Svezia le persone pagando facendo pagare loro il biglietto del treno al 100% dal lunedì al venerdì, se venivano il sabato e la domenica al 50%. Quindi anche noi diciamo che ci lamentiamo molto spesso le nostre fanciullezze anaffettive, delle trascuratezze dei genitori, via dicendo, abbiamo ancora qualche speranza di poter condividere ciò che non abbiamo avuto con il resto del mondo. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti, a domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.